con voi in bagno. Vilipeso in Roma è il comando del console di Tito. Questi non più di Roma, non più di Tito è figlio. D'Empio Cloto s'ha tratto il ferro impegno. Ed è romano Marte sua conquistata, veglia guerriera. Il vecchio Tito e veggalo il senato, il fil dei nostri brandi, raggruppò di sua vita oggi lo state. Che non si dè gran Tito a chi merta l'amor, la scura infama. Tito che vedi, decio è il voler delle squadre, legge alla legge. In mano chi tiene Roma, impero a sul romano. Maglio, figlio, alla patria vivi ed al padre, che questa nel tuo nuovo Natal virtù ne impara. Quel cittadin che vago e di vittoria nella sua patria cerchi l'ubbidienza pria, poscia la gloria. A Serviglia che degno è d'amore e di fede al mondo esempio, e che diverso in petto il core ad ai natali, stringi la man di sposa. Mia vita, mio tesoro, quanto il sogno mi diede al fin possendo. Signor, fa che ritrosa vitelli a me s'annodi, e alla tua destra dall'armi dei latini ed il comando del caduceo disponi tu e del brando. Spontanea ecco la destra, la pace via la patria, e con ulivo e con l'allor di maglio oggi si scriva: viva l'eroe del Campidoglio, viva, viva!